bella la nostra sigla, voglio. È mi proprio bella assai la nostra sigla. Chicciotia, voglio, stasera. Chicciotia. Buonasera ai nostri cioti ascoltatori. Buonasera. Che in questo momento sono esattamente, vi dico subito chi. Ciao, bellissimi. Abbiamo 16 ascoltatori online. Ciao a tutti voi con problemi più o meno gravi. Buonasera e benvenuti e bentornati per questo nuovo appuntamento con la Ciotia direttamente dall'etere. Sei confermi. Allora, stasera apriamo all'insegna della Ciotia più assoluta. No, perché volevo ricordarvi che ci dovrebbe raggiungere un ospite. Un ospite. Bene, allora Dopo tanto tempo abbiamo un ospite. Dopo Maria Pagano un nuovo ospite che salutiamo. Tra l'altro, ciao Maria, spero che il tuo rosario sia andato bene oggi pomeriggio. Ciao Maria, il nuovo presidente della Regione Calabria ci verrà a trovare qui in diretta. Maruzzo, davvero? Sì, palla. Sì, dici che ha finito. Scusi, la signora Pina ha fatto un documento. La signora Pina ha votato Oliverio, vero? Allora, Maruzzo da San Giovanni, che è il nostro DJ della prossima festa della radio. Davvero? Ricordiamo che sì, il 12 possiamo cominciare a lanciare, dai. Sì, dai, facciamo questo lancio, Che il 12 dicembre ci sarà il festival di Fuori Onda Radio. Un festival, non una jam session, un festival. Quest'anno, proprio, anzi, parleranno... un festival. Ma quest'anno, quando a Rai Storia parleranno del 12 dicembre, oltre a ricordare la strage di Piazza Fontana e lo sciopero generale, ricorderanno anche il festival. Il festival dell'aula più occupata Getz. Fuori Onda Radio. Ricordate guardare Getz su Rai Storia. Sti Getz. E quindi a questo festival si esibiranno chi? Io, tre gruppi esordienti. Ce l'ho cacche, che sono artisti. Ce l'ho cacche. Si esibirà Flavia e Peppe Lisotti, sì. Acoustic Duo, Acoustic Duo. Ci sono sei, Flavia Lisotti, sono io e Fratima Peppe, che è lì che sta facendo nerdate. Sì, poi si esibiranno i Bequadro, che ne Ciotia pure loro, allucinante, sì. Grandi. E poi i ragazzi Sex and Helvetic System. Sex and Helvetic System. Noti come Bella Spi. Insomma, sarà una serata abbastanza variegata all'insegna. E poi la cosa stavo dicendo che si concluderà. Insomma, aprirà la nottata con un DJ set di Maruzzo da San Giovanni, che potrebbe essere, diciamo, ma quel Maruzzo. Non lo sappiamo. È quel Maruzzo lì da San Giovanni, è quello lì? Non siccome lo sapremo mai. Il DJ è un pochino, come è dire, timido. Mario. Mario. Però potremmo pubblicizzare Maruzzo da San Giovanni. Buono. Io in tutto ciò però volevo fare un saluto al vincitore tra i perdenti, scusatemi. E chi ne è? È lui, quello che ha imbrattato mezza Cosenza e dintorni. Leo. Tanti saluti a Leo Battaglia. Tanti saluti a Leo Battaglia, che ha saputo perdere con onore. No, con ardore. Non è entrato, amici. Non è entrato proprio il partito, non ce l'ha fatta. Non è proprio entrato. Purtroppo. In regia abbiamo dei colpi di tosse così. Infatti il nostro amico, ancora non amico ufficiale, però noi lo consideriamo un grandissimo amico, sì? Webmaster. Noi salutiamo. Chiedo a livello Ciotia. Io, guarda, veramente, quello sarebbe un vero ospite da portare. Lavoriamo. Noi lo invitiamo. Lo invitiamo ufficialmente. Ufficialmente. Quindi Webmaster, non si scalercio, ti aspettiamo. Perché ti aspettiamo. Insieme a Spinoza e Lercio sei la nostra più grande fonte di ispirazione. Ha fatto sto video bellissimo comunque Nunzio, che su Spiga Web uno dei sì, tanti sì, video. Si chiama Leo torna a casa, che sarebbe tipo il sequel della parodia che la settimana scorsa. Eravamo fidanzati, poi tu mi hai lasciato senza addurre motivazioni plausibili. Coinvolto la nostra connessione. Grazie. No, capisci l'universo femminile? Chissà. La mia spiccata sensibilità. Amaro. Si contrappone al tuo gretto materialismo. Schifo, schifo. Ciò nonostante, cara ti amo, mi sento confusa. Cara ti amo, devo stare un po' da sola. Cara ti amo, mi sto da una storia di treni con un tipo. Cara ti amo, non mi voglio sentire legata. Cara ti amo. Il momento dello humor ci va. Rimani in casa, voglio essere libera. Esci pure con chi ti pare, non ti interessi mai di quello che faccio. Vorrei palparti le tette, porco, mai ti toccherei neanche con un fiore. Finocchio. Mi drogo, bestemmio, picchio i bambini e non ti cago. Ti amo. Mi faccio il culo 14 ore di seguito per mantenerti e ti cago. Ti lascio per un tossicomane che non fa un cazzo tutto il giorno, che bestemmia e picchia i bambini. Mi metto il goldone. Ho un desiderio di maternità. Ho un desiderio di paternità. Mettiti il goldone. Cara ti amo, mi sento confusa. Cara ti amo, devo stare un po' da sola. Cara ti amo, e sono le stelle di con un tipo. Cara ti amo, non mi voglio sentire legata. Cara ti amo. Giovani comici a Corsico. Rimango in casa, mi opprimi, esco, questa casa non è un albergo. Ti passo un cubetto di ghiaccio intinto nel Cointreau sulla pancia, dopodiché ti scopo bendata. Non sono una troia. E allora in posizione canonica, io sopra e tu sotto. Che palle. Disse la vacca al mulo, oggi ti puzza il culo. Disse il mulo alla vacca, ho appena fatto la cacca. Cara ti amo, mi sento confusa. Cara ti amo, devo stare un po' da sola. Cara ti amo, non riesco a nessuno con più tempo. Cara ti amo. Cara ti amo. Ed ora uniamo i nostri corpi nell'estasi suprema che è propria dell'idillio dell'amore. No, perché quando avevo 13 anni mio cugino me l'ha fatto vedere e da allora sono traumatizzata. Però possiamo restare abbracciati tutta la notte senza fare niente, sarà bellissimo lo stesso. Te lo tronco nel culo? Dai, sì, lo so. Usciresti con me domani sera? Sono un po' stanca, forse già un altro impegno. Beh, poco male, così vedo i miei amici. Sono libera. Mettiamola sul sesso. Ho bisogno di affetto. Mettiamola sull'affetto. Chiediamo. Io sono come sono. Cerca di cambiare. Ecco, sono cambiato. Non sei più quello di una volta. Tu mi appartieni. L'utero è mio. Eccoti i soldi per la pelliccia. Eccoti l'utero. Evviva l'amore. Viva l'amore, viva l'amore, che bello, siamo tornati. Questa è, ragazzi, questa è. Il nostro regista si è dovuto impegnare a fondo per riattivare lo streaming. Maledizione, signore. Insomma, ragazzi, questa era Cara ti amo, forse uno dei pezzacci più pezzacci. No, come fai a dire qual è il pezzaccio, più pezzaccio di Elio? Però questo è quei cazzi, insomma, no? Ebbene, siamo tornati dopo un momento di stallo dovuto alle nuove tecnologie. Ebbene, siamo ben due, siamo 15 ascoltatori, yeah. Io... 15 ascoltatori. 15 ascoltatori, bene. Ascolta Cioti. 16, ascolta Cioti. Allora, io direi che potremmo andare direttamente al punto e cominciare a dare qualche notizia ciota, giustamente, no? Sono notizie ciote, ma sono notizie vere. Per esempio, c'è una notizia che volevo tenermela per dopo, però in realtà penso proprio che ve la darò subito perché è una notizia shock. Shock? Una notizia shock. A me ha mai scioccato. No, shock no, che mi fa fame. Perché, ragazzi, voi pensate, ma ci sono notizie che fanno... voi ridete. Voi ridevate. Ma ci sono notizie che ti fanno crollare il mondo addosso, cicciopù. Tu scherzi, ma ci sono queste notizie che ti distruggono tutto. Fanno crollare il mondo irrimediabilmente. Fanno crollare il mondo come i terremoti, per come Povia. Come i terremoti, come boom. Boom, vai. Perché io, mo parliamone, quanti di voi hanno dubitato fino ad ora che Hello Kitty fosse un gatto? Tu, secondo te cos'è? Un gatto. Secondo te che cos'è? La disegnano come un gatto. Boh. È un gatto. And I wish it's dead, mannaia. Esatto. Io l'ho vista una volta con un assorbente usato e mi sembrava una chiazza, un gatto squartato. Ecco, in ogni caso comunque punto di partenza è sempre un gatto, giusto? Potrebbe giusto anche essere un coniglio. Vediamo, no, spiegami questa teoria. Perché una volta mi hanno detto che se ti mangi il gatto sembra coniglio. Quindi tu dici che è o un gatto o un coniglio. E invece no. Perché, okay, no, bravo, perché la Sanrio, che è questa azienda giapponese che ha inventato il famoso personaggio, ha detto che vuole dire la verità, Ciccio Poo. E qual è? Ha detto la verità, perché quale? Non ce la faceva più a tenersi tutto dentro. Hello Kitty non è un gatto, Hello Kitty è una ragazza inglese che vive da poco fuori Londra. Ma noi stiamo all'Inghilterra. Chissà. Ragazzi, effettivamente se voi andate su Wikipedia... Andate fuori Londra. E scrivete Hello Kitty... Fuori Londra. Esatto. Trovate le ragazze che sono come gatti. Esatto. La cosa assurda è che... I maschi sono come Romeo. Sì, il meglio del Colosseo. A quanto pare Kitty sarebbe, il nome intero è Kitty White, che viene chiamata, insomma, soprannominata così. È una ragazza che si veste da gatto. Come posso dare la... Volevo ricordare che il Viminale ha bocciato Palazzo Marino. Ah? Il Viminale ha bocciato Palazzo Marino. Sì? Sì. Ma Ciccio Marino? No, Palazzo. Palazzo Marino. Palazzo Intelligente. Non ce l'ha fatta gli esamini. Voglio, chissà, se uno non studia, non studia. Non è che moglie può inventare i regali voti così, 18 che ti deve laureare. Ma fanto culo. E poi se ne riparla l'anno prossimo. Questo è, o no? Sì. Eh? Io vorrei dare la definizione di Hello Kitty su una stimata enciclopedia internazionale proprio, sì, di livello su un'enciclopedia. Sì. Hello Kitty è un sofisticato sistema di controllo mentale, nonché un gatto finto di plastica. Sì. Il suo tratto distintivo è quello di non essere niente, cioè solo un disegno senza nessuna storia. E nonostante ciò è tanto diffusa da risvegliare, dopo la 170esima volta che l'hai vista, primordiali istinti assassini. Azzo. Però ci fermo a scrivere che non ce lo pedì. Non si collega. No, ma sono confusi. Sono confusi perché hanno sbagliato. Perché no. Perché quelli là dicono che è una ragazza, perché ha chiaramente connotati femminili, no? Cioè ha due orecchie bianche, appuntite. No? Massimo Scicchitano. Sì, no, prego. No, vabbè, non i nostri ascoltatori fisici non sono d'accordo. I nostri passanti. Io non sono d'accordo con quello che dice l'enciclopedia e penso che farò... Glielo diremo. E invece volevo darvi un'altra notizia. Più che una notizia, volevo darvi un messaggio promozionale per le vostre vacanze. Sì. Perché io oggi stavo guardando un pochettino di viaggi, perché devo fare un viaggio per i fatti miei. E niente. Sì, lo sappiamo che sono artista. Devi andare a scrivere il tuo nuovo album nelle praterie. Nelle praterie dell'Illinois. Dell'Irlanda. Dell'Illinois. Grazie. Però niente, cercando così tra i vari itinerari dei viaggi, mi piace che ti stai soffiando il naso con la tua vaglietta della mensa, grande. Comunque, tornando a noi... Ma di solito lui si scaccola con i coltelli della mensa. Iana, mi sei proprio un uomo rude, sei. Stiamo parlando ovviamente del gemello Massimo Scicchitano, nome e cognome. Insomma, se vuoi dare i tuoi contatti online in diretta. Ma tornando a noi, ho trovato questo posto bellissimo. Che sarebbe? Che se io ci voglio andare. Ovviamente è in Corea del Sud. E si tratta, ovviamente perché non poteva essere altrove. Mi raccomando, facci con Korean Air. Chiaro, ci vado con Korean Air. Una delle 10 compagnie peggiori del mondo. Esatto. Bene, perfetto, è il parco. Ricordiamo però, scusate. Cosa? E fammi finire però, vai. Ricordiamo. Amen. Cosa? Amen. Amen cos'è? La nuova compagnia. Esiste la compagnia aerea Amen? Sì, ti accompagna insieme... Nell'ultimo viaggio. Il pilota. Ti accompagna nell'ultimo viaggio, perfetto. Un viaggio a senso solo, senza ritorno, se non in volo. Detto questo, andiamo a noi, perché in Corea del Sud esiste un parco meraviglioso. Non è un parco giochi, non è un parco acquatico, è il parco dei cessi. Ebbene sì, perché in Corea del Sud c'è questo bellissimo... parco, come lo vogliamo chiamare, museo all'aperto, dove sono raccolti appunti, esatto, dove sono raccolti appunti più svariati oggetti d'arredamento dei bagni che è stato appunto creato da un imprenditore soprannominato Mr. Toilette, ovviamente. Insomma, ed è anche grazie a lui che i servizi igienici pubblici in Corea sono stati migliorati sensibilmente, consentendo un maggiore benessere della popolazione. Quindi non dimentichiamo che comunque c'è un effetto sociale di questa. Hanno pure il bidet? Sì, sì. Non lo so se in Corea hanno il bidet. Hanno fregato i francesi. Ma il bidet non ce l'hanno i francesi. Lo so, li hanno fregati. Hanno fregato il bidet. Capito? Ma nella mia. Cazzi, lordi. Però uno dei punti più interessanti. Comunque, del un bel video da vedere su internet. Googlate cosa si fa col bidet se non sei italiano. Vi divertirete tantissimo. Lo voglio fare anch'io. Lo farò subito. Appena ci sarà la nuova canzone. Userai in quel modo il bidet? Ha detto lo farò anch'io. No, vedrò il video. Comunque, vedrò il video. Ricordiamo che se viaggiate usate i nostri sponsor. Amen. Abbiate fede. Volate con noi e la sua consociata low cost Alive. La prossima volta andiamo in treno. Mi raccomando, non andate con i concorrenti, viaggiate con loro. E su questo, non lo so, darei la parola a qualcuno di voi. Avete qualcosa da dire? Non lo so. Sì, io ho una notizia di Repubblica, proprio seria. Sì, praticamente sul sito di Repubblica.it fanno vedere come si può stare sotto la pioggia in modo originale. Perché ci sono delle invenzioni sugli ombrelli. Sì. Tipo per esempio c'è un ombrello col mirino. Perché così vedi meglio le gocce mentre... Sì. Piove. E un ombrello con un modello luminoso per essere riconoscibili anche di notte. Così, sì. Quello che si trasforma in mazza da golf. Beh, chiaramente, perché se tu stai giocando e comincia a piovere, non è che si trasforma in mazza da golf, è la mazza da golf che si trasforma in ombrello per ogni necessità, di modo che poi tu non te la devi andare a comprare dai marocchini che fino a 3 minuti prima vendevano i braccialetti e adesso vendono magicamente gli ombrelli. Sì. Poi c'è quello per i cani. Che chiaro. Ovviamente tu invece di tenere il guinzaglio tieni il manico dell'ombrello, però tipo l'ombrello è al contrario e copre il tuo amico a quattro zampe. Diciamo avanguardistico, ma tu nel frattempo, questo è bellissimo. C'è un ombrello con il dito medio, bello così, sopra, insomma, chi ti guarda da dietro. Sì. Poi ce n'è un altro tipo, che cazzo è sta cosa? Invece di tenerlo in mano, hai presente quando tu passeggi con l'ombrello sotto la pioggia? Sì. Magari hai una mano occupata dal manico, no, sì. Invece tu con questo nuovo modello di ombrello che è costituito un come dire un manico telescopico che si può avvolgere intorno alla spalla, hai tutte le due mani libere. Ma vedo che la modella è giapponese, queste cose le possono fare solo da quelle parti lì. C'è un'altra con la mappa di qualche città dove ti interessa andare, sì, tipo per i turisti. Buono. Ce n'è uno che ti copre fino alle ginocchia. Sembra un po' la palla del criceto questo. Sì, tipo una palla del criceto. Grandi invenzioni, grandi invenzioni. Grande Repubblica. A questo volevo legarmi. C'è una forma di manetta. Quello è per le coppie un po' così. Così non lo perdi. Io volevo dare un'altra notizia dalla Repubblica. Maria. Io volevo dare una notizia importante. Quale? Giuseppe Povi è un cantante. Gli applausi in regia non ce li abbiamo. Niala, mi sa che clap, è di clap, merda. Clap. Niente, io volevo dare una notizia dalla Repubblica. Vai. La COP si lancia nel mercato dei preservativi. Ebbene sì, ragazzi, vi giuro, lo potete trovare su bologna.repubblica.it in cronaca. In vendita nei supermercati fallo protetto, realizzato in collaborazione con la Lila. Non stiamo scherzando, perché arriva sugli scaffali di iper e supermercati il primo profilattico a marchio COP. Si chiamerà appunto fallo protetto. Che io mi chiedo in che senso, Ciccio Pù? Nel senso di farlo protetto o di pene protetto? Di pene protetto? E in questo caso è sessista pene protetto. È sessista, scusami. È perché mica è protetto solo il pene. Bravo. In questo modo è protetta pure la vagina. Infatti. Io lancerei una campagna contro la COP con hashtag vagina protetta. Diglia alla COP che Eurospinge è già arrivata. La prima volta c'erano 12 preservativi a 2,60 euro. E alla miseria, alla COP. Fallo una volta e per 9 mesi lo potrei fare senza. E guarda che però la COP gioca male, perché dice che in Italia prima di loro nessuno si era avventurato nel settore dei dispositivi medici, nello specifico profilattici, includendoli nei propri prodotti a marchio, in gergo private label, ovvero i prodotti che portano il nome della catena distributiva del supermercato che li pone in vendita, sui quali il controllo e le garanzie iniziano dalla prima fase produttiva. tipo i formaggi, no? Dice a noi il formaggio della Coop, la Coop sei tu, la Coop, e fallo protetto. Ok, quindi la Coop sono io. La Coop sei tu. Ma però non sono. No, quelli no. Ma a proposito di fallo, ricordiamo la famosa frase di Povia. Sì. Oh, che meraviglia. Ma do quando è grosso. Povia in un momento di tenerezza con Luca. È perché infatti noi ricordiamo che abbiamo lanciato a Povia una serie di domande. Le lanciate tu? No, io tu manco. Io me le Vabbè, le abbiamo lanciate nel lettere, diciamo, o comunque gliele lanceremo. Vogliamo sapere da Povia appunto se lui conosce Luca, perché sa che era gay e soprattutto chi è lei. Comunque, a proposito di Povia, sempre sulla nostra enciclopedia di fiducia, sì, online, c'è la bibliografia di questo artista. Che praticamente esordisce di Povia. Dice No, dici che artista non va bene. Di questo Povia. No, dici che cantante non va bene. Di questo signore qua. No, dici che signore ancora è troppo. Di questo qua. Questa è. Vabbè. Andiamo direttamente al punto cruciale della sua bibliografia. Dicono in questa scrivono in questa enciclopedia. Sì. Ha cominciato a romperci le palle nel 2004. Due anni dopo ha visto i primi uccelli. Nel 2009 debutta a Sanremo. I piccioni nello specifico. Sì. Nel 2009 debutta a Sanremo. Finalmente ha preso un uccello. Uno. Troppo vecchio per fare Amici di Maria De Filippi. Troppo insignificante per fare X Factor. Troppo cesso per fare Uomini e Donne. Ambiva a fare il tronista per trovarsi una corista. Si ispira alla filosofia tipica di Michael Jackson. Ah, scritto... Come è scritto, scusa? Scritto proprio... Michael Gayscon, no. Scritto Michael... proprio letterale. Ah, il Jackson. Alla italiana. Ovvero, prima fa il simpatico con i bambini e poi rivela rivelati per ciò che ti piace. Insomma... È un grande personaggio, grande, ma cosa grande, dico grande. Personaggio? È un grande, ma cosa dico grande? È uno. Infatti la sua canzone I bambini fanno parla fondamentalmente di un gruppo di bambini che incontrano Giuseppe Povia, allora chiamato Luca Povia, per sì? strada, e lui gioca affettuosamente con loro. I giovincelli rispondono a questo affetto urlando di gioia. Oh! Scusa, ma un passaggio mi sembrava molto importante, quindi Giuseppe Povia era conosciuto come Luca Povia? Sì. Sì. E qui già cominciamo ad avere qualche risposta, diciamo, no? Diciamolo. E poi è diventato famoso scrivendo una canzone di oltre 3 minuti con queste 3 frasi: i bambini fanno oh. Questo voglio, insomma, è una verità scomoda, però è una verità effettiva. E Povia è Luca, cioè Giuseppe Povia è Luca. Sì. Quindi Luca abbiamo era gay. Ci siamo autorisposte alla domanda che gli volevamo quindi, porre. Ecco perché sa che Luca era gay. No, perché però è stato con lui e con lei. No, e qui allora chi è Luca? Ci abbiamo la risposta, è lui, è il suo alter ego. Come fa a sapere che era gay essendo il suo alter ego? Lo sa. Ci rimane la domanda, chi è lei? Giusto? Vorremmo avere una risposta, insomma. Chi è lei proprio? Ma infatti abbiamo come fa? La vogliamo Ma vogliamo vedere. Ma come cazzo hai fatto? Ma lei forse è cieca. Della Cecoslovacchia. No, proprio un civile. La Repubblica Ceca, un civile. Regia, ma abbiamo quella canzone dei Gem Boy che si chiama Federica per caso, là? No, non ce l'abbiamo scaricata. Chi regia di merda vuoi? Banda, sono marotto. E questo è vero. Banda, sono marotto. Sì? Alla paglia. Però, sì? Sei marotto? Il nostro ospite! Scusate, vogliamo una musica di sottofondo per l'occasione? Sta cambiando la situazione. Scusa ospite, ma ti presentiamo qui contro cazzi con ma la presentiamo dopo il pezzo? Un applauso, grazie. Clap, abbiamo clap, qua con clap, noi questa clap. Sera in esclusiva, siamo i primi ad averlo dopo la sua elezione, il nuovo presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio. Grazie. Un applauso. Grazie a tutti i cittadini di questa grande provincia che è Cosenza, regione che è la Calabria. Abbiamo insomma il pubblico veramente in delirio. Grazie. Prego, buonasera presidente. Buonasera. Ma scusate, ma non ti sento bene. Casi iniziato tutto ieri la live e le cotte case, non posso fare male, che dici che non è una Reggio Calabria, non è Catanzaro, non è una Reggio Calabria, ma chi. Ma come potete la sacca Cosenza e San Giovanni? Sì, lo capiamo, perché insomma deve essere un momento. Ma dici che a Meruna non sono 20.000 euro, ma che c'è, faccio cosa vende? Non avevo capito, signori. Io un gevaio. Non voglio diventare presidente di questa regione. No, vabbè, ma presidente, io non dica così. Io volevo fare il presidente della provincia di Cosenza. Poi c'hanno mi sa che lo catenare in c'era capo e mia mano mi sa. Io volevo fare il presidente della provincia di Cosenza. Sono stato la terza provincia della provincia. Ma lei lo sa chi è adesso il presidente della provincia di Cosenza? Ma chi è un minchione, chi è un marozzo? Chi, scusi? Ma Mario Occhiuto. E in che rapporti ha lei con Mario Occhiuto? Ci le mise al culo quando era piccirito. No, no, presidente, si dia una calmata, insomma. Presidente! Siamo comunque... Perché tu una cosa, no? Mi dica. Chi dirà, sì, quando ci andano a Cosenza, si fanno tutti i guappicci. Chi si godono dopo, si ingiappettano già via popoli. Come? Niente. Ma lei come risponde alle provocazioni che sono sulla stampa in questi giorni, che la chiamano Uluprasila? Che c'è di? I lupi o sui Cosenza? Chissà, no, è caga che sbagliamo. I lupi su d'asila. Allora, se l'asila è sopra, quando la pisciazza arriva a Cosenza? Ma la sua giunta si faceva qualche giorno fa una osservazione acuta. Interessante. Non so se lei ha ritrattato oggi o ieri, però vantieri ho letto un post. Quando? Vantieri. Un post di un nostro nuovo amico, Nunzio Scalercio, che diceva che... Ieri non ero ancora presidente, perché a Castello Libero dici che ancora veniva a votare gente, avevo capito che era lui o no dopo. Chi dice Tarielli? Sì, vabbè, si diceva in questo post di questo nostro amico, nuovo amico, ancora gli dobbiamo chiedere la richiesta. Che lei nella giunta non ha convocato nessuna donna. E usa. E perché? Perché? Tra l'altro ricordiamo che ieri è stata la giornata contro la violenza sulle donne, quindi è un appunto, momento importante. Appunto, e siccome io sposo questa causa, no? Che le donne non bisogna usare violenza, sì. Per non usare violenza è meglio che non le vedi, così non ti viene nemmeno l'idea di alzarci le mani. Ah, mi sembra un buon motivo, approccio, sì. No? Beh, perché tutto tra le immagini quando siamo là nel consiglio regionale che dobbiamo decidere una cosa. Abbiamo un San Giovannese qui che può parlare con il presidente. Chi sono sta che di l'Olivaro? Con il presidente del. Senta, qui abbiamo il presidente della regione Maruzzu. Lui è Mario Oliverio, il presidente della regione Calabria. Un suo parente. Salve. Ciao. E ti vieni, l'Olivaro? Va a te. L'autobus, perché l'Olivaro? L'autobus. In San Giovannese, per favore. Oh, Pullman, non ci può arrivare, non c'è la tenda. C'è troppa zing. Scusi, signor passante di San Giovanni, mi scusi. Chi di ferrovia dice che non si può fermare, non c'è manco un bar. Scusi, signor Presidente, noi vorremmo avere, insomma, uno scambio con il nostro... Un attimo. Vorremmo avere uno scambio con il nostro ospite San Giovannese. Tra residenti a Pallapalle e residenti a Lorevaro. Però vorremmo che questa cosa succedesse, diciamo, in lingua. Perché questo è un momento linguistico alto. Io purtroppo questa mia lingua madre l'ho scordata. Vabbè, però vorremmo, insomma, vedere se con un aiuto del suo compaesano in San Giovannese, per favore. Non ci parlo, io non ci parlo. Un'ultima domanda. Perché, secondo lei, il presidente Mario Oliverio ce l'ha molto con quelli dell'Olivaro? Ma perché sa casi mi chiumiglie, casa, non un paese a de cazzo, guarda. Caro presidente, traduzione. È a conoscenza del fatto che noi abitanti dell'Olivaro siamo decisamente i migliori in assoluto. Senza di noi dove va? Ringraziamo il passante San Giovannese per una memoria limitata. Esatto. E che cosa vuole replicare, signor presidente, insomma, alle recenti non lo so come chiamarle, diciamo, vogliamo chiamarle provocazioni, le chiamiamo provocazioni. Agenda, no? Sì. Pain elefante, era la memoria corta. Sì. Un ricordo. Quello che ho fatto io per questo paese. Che ha fatto? Per questo angio... una volta ci ha fatto la ospedale e poi mi hanno chiuso. Ci ha fatto i pompieri e poi mi hanno chiuso. Sì. Ci ha fatto la questura e poi l'hanno chiusa. Cioè, io però le ho fatte aprire. E gli altri le hanno chiuse. Lei ha ragione, signor presidente, tutto sommato. Siamo 20.000 abitanti. 20.000 fanno i forestali, devono ringraziarmi. Questo è vero, noi abbiamo delle interferenze intanto. Io volevo farle un'altra domanda, signor Presidente, a proposito di violenza, appunto di... Sulle donne? No, non più sulle donne, non solo almeno. Sui gay? No, non sui gay, no, non solo almeno. Volevamo parlare di quello che è successo durante la chiusura della sua campagna elettorale a Cosenza, si ricorda? A Cosenza? Sì. No, io non c'ero. Come non c'era? Di cogliere la leve capodici, che sabato giovì e di non dare della peccata. Lei hai proprio incontrato in quella sede venerdì scorso Renzi il presidente del consiglio. È venuto qua per appoggiare la sua campagna elettorale. Tra l'altro mi Renzi, ricordo che... Mi faccia parlare. A chi lo cazzicolo facci di Berlusconi ci appoggia? Ecco, appunto, a mia no. Ecco appunto, ma io ricordo che lei... Non diciamo illazioni. Insomma, lei aveva espresso un po' di delusione per il fatto che la campagna elettorale non venisse conclusa in pubblica piazza, perché si temevano gli scontri che in effetti ci sono stati. Ma perché in pubblica piazza potevamo mettere Giovanni Cavaggeri Panini e Cusinini con gli amici sordi di questa campagna elettorale, no? Sì, questo lo capisco, ma quello che voglio sapere da lei è se ha qualche replica da fare a quello che è accaduto appunto venerdì, che ci sono stati insomma degli scontri tra manifestanti contrari alla presenza di Renzi nella città di Cosenza. Comunque io voglio ringraziare i manifestanti perché erano contrari alla presenza di Renzi e non alla mia. E questo è un punto di vista interessante, ma quindi lei cosa vuole, condannare la violenza che si è perpetuata diciamo anche nella città di Cosenza? Sì. Ricordiamo e che gli scontri oltre la polizia, cioè io quando ero presidente della grande provincia di Cosenza, sì, le altre fanno schifo, e la regione si chiamerà regione Cala Cosenza, sì, e gli ospedali adesso sono solo a Cosenza. Sì, li chiudiamo gli altri. Noi prima ci hanno chiusi i nostri, ma chiudiamo gli altri. Va bene. Comunque il mio programma politico ve lo spiego dopo, se volete. Avevo fatto la polizia provinciale, che sì, erano quattro zingari cuoti in mezza via, che dico, se casomai succede qualcosa, un giorno fa niente, non succede niente. Sì. Adesso farò la polizia regionale, ancora meglio. Sempre quattro zingari cuoti, così la prossima volta che i manifestanti vengono, magari la polizia non sa che fare, se ne va, così non succedono gli scontri. Questo è interessante, questo è importante. Quindi sì, i cappelli saranno sempre più grandi. Abbiamo pensato di farlo alla messicana, capito? Ah, per tenere la distanza di sicurezza, insomma. Non so se hai visto quelli della polizia provinciale, belli ampli. Sì, ampli. Ampli. Sì. Ampli. E mo li faremo ancora più ampli. Sì. Perché dobbiamo accontentare tutte le province. Ogni provincia metterà un pezzo nel cappello e ci guadagnerà dei soldi. È chiaro. Una nuova strategia di piazza. Molto, molto grande. Interessante. Grande, insomma, il signor Presidente. E quindi lei, io vorrei sottolineare, lei condanna la violenza. Indubbiamente, la violenza sempre. Di piazza, se da parte piazza, della polizia, sui gay. Sempre. Quindi il questurino che ha manganellato ripetutamente, ha spaccato la testa a quel ragazzo del corteo. Ha qualcosa da dire? Insomma. Lei ci lascia una provincia Cosenza. Sicuro, insomma. Sicuro. Posso mettere la più o meno di che città potrebbe essere? Non lo so, dovevo ancora informarmi su questa cosa. Ma quando succederà non la farò più entrare nella provincia di Cosenza, questa città. Ah, perfetto. Ascolti, una domanda importante che credo interesserà tutti i nostri ascoltatori. Qual è la prima cosa che farà in qualità di presidente della regione Calabria? Cioè, quali sono i suoi piani? Ma cambierò il nome della regione Calabria in regione di Cosenza. Esatto, perfetto. Qui abbiamo notizie importanti. Ma questa cosa non avevano... Cosenza regione. Non l'aveva... È diverso. Quella volevano proprio spaccare la Calabria. Noi invece qua vogliamo feudizzarla, ok? No, feudizzarla, inglobarla, se no, mai. No, noi non la pigliamo. Noi siamo, capito, come quando la Spagna era, i Borboni erano protetti dalla Spagna. Noi proteggeremo la Calabria da Cosenza. Loro ci danno oro e noi ci diamo i sombreri. Ok. Un'ultima domanda che mi interessava porre al Presidente. Cosa ne pensa di questo astensionismo alle elezioni? Sì, alle perché una? Lei alla fine ha avuto il 60% sul 40%. Quindi volevo dire una sì, cosa. Sì, ma non stia fermo. Il 60% del 40% fa sempre il 60%. Sì, questo lo capisco, chiaramente. Quello che le voglio dire è che, diciamo, che sono andate a votare una persona su tre. Ma che voti, Movimento 5 Stelle? Ma non è che mo ci manca nella pure a noi con l'asta del microfono. Sì, mi scusi, metta giù l'asta del microfono. No, la invitiamo alla calma. La nostra nuova polizia regionale non avrà più manganelle. Che cosa avrà? Allora, la canna rusca, chi raffecoglia la lita. la pertica. La pertica. È interessante anche questo. Ora c'è lo scuotitore elettronico, quello motorizzato. E dice, mi fa venire un'idea, capo. Ma parlando ancora... Esatto. Parlando ancora di estensionismo, mi scusi, signor Presidente. Io qua volevo arrivare. Esatto, ma lei si sente legittimato da questo voto? Perché io non ce l'ho con quelli che non sono andati a votare, poverini. Ce l'ho con chi ha deciso di fare la lezione il 24 novembre. Perché? Agenda ti coglie la live. Ecco, questo è vero. E non ci può dire a votare. Quindi lei si sente legittimato? È vero, io domenica posso testimoniare che sono tornata dalla campagna per la raccolta delle olive. È come se avessi fatto una lezione a gennaio. Agenda ti scannavo pure, non ci può dire a votare. Non capiamo. È giusto, giusto. Quindi lei pensa che ci sia stato un tentativo di sabotaggio da parte della destra? Sì, da parte del ministro degli interni, che era pure a Cosenza quel giorno. Sì, no? sì, Albano, lo sappiamo. Al Cinema Italia. Sì, sì, erano in 30 quelli lì, più sì, o meno. Sì. Sì. Però l'ha avuto i voti, ha visto? I giuoti. A Cosenza, Benedica. Di giuoti in nave, prego. Grande Pinuzzo. Pinuzzo Gentile ce l'ha fatta. Un cuore. Sole, cuore, amore. Sole, Ciccio cuore, Pupo. Amore. Ciccio Pupo sta lavorando. Casse. Quadrato. Il tesserino di Andrea c'è Ciccio Pupo. tornando. Non Ciccio il bello Pupo, della diretta. Il bello della diretta. Tornando a noi, quindi, signor Presidente, lei sta dicendo che si sente appunto legittimato, anche se ha votato un avente diritto su tre. Sì. Sì. Per me in realtà questa lezione è stato come un fulmine alla vigilia di Natale. Un fulmine alla vigilia di Natale, sì, perché ti mangi il tortillo, no? Sì, sì. Perché non me l'aspettavo sinceramente. Sì. Detto, finalmente posso usufruire di questi miei 4 anni di presidente, così mi c'ho la pensione a vita. E invece me lo fai noi presidente per 5 anni. Quindi lei diciamo quindi che niente vitalizio. Esatto. No, il vitalizio mi arriva lo stesso insieme allo stipendio. Ma quindi lei sta dicendo una cosa importante, cioè il suo ingresso in politica è finalizzato a risorto. Questo è almeno un presidente. È legittimo, onesto. È legittimo. Sì, sì. Io l'avevo capita l'Andifona. Quando mi iscrissi al PC, che però all'epoca non vinceva tanto, ero lungimirante. Ho detto un giorno finirà tutto questo, diventerò presidente di una grande provincia come la provincia di Cosenza. Esatto. E avrò i soldi. Anche questo è importante. Una ultima domanda prima di qualche... Se lei poi vuole dire altro, può aggiungere quello che vuole. Io volevo farle una domanda importante. Lei per chi ha votato? Io ho votato per quello dell'NCD. Chi è? E non me lo ricordo. Però ha votato per NCD. Perché praticamente, siccome dovevo fare un viaggio a un amico che mi ha fatto assumere il figlio all'ospedale, e non è che ci poteva rinunciare un voto. Questo è importante. Ce l'hai detto, mi sono candidato io. Voto di scambio. Però figli, io ci ho detto, mi sono candidato io, non posso votare a me stesso. Quello mi ha fatto. Però ricordati che quando avevi bisogno io a tuo figlio gli ho fatto pulire il vomito nel pronto soccorso. E allora ho detto, hai ragione figli, cioè per quei 200 euro che ha dato a mio figlio l'ho dovuto votare. Capito. Purtroppo non ce l'ha fatta, però io sono contento lo stesso. Facciamo comunque un applauso di incoraggiamento. Tutti quelli che hanno avuto il voto di scambio al contrario con me, perché ne ho fatto di piaceri e quindi alla fine il 60% a Cesare quel che di Cesare, a Mario voto, perché gli ho fatto questo piacere. Mm-mm. Capito? E ringrazio tutti i candidati che hanno fatto il loro piacere. E a proposito di candidati, voti a me. Esatto. E a proposito, una battuta veloce su Leo Battaglia. Chi è? Appunto, io direi che Leo Battaglia. Io però mi ha imbrattato tutta la vita senza San Giovanni su Leo Battaglia, la regione è scritto giallo. Dato bianco che, anche bianco. Ho detto, ma chi si è candidato con il Movimento 5 Stelle? Invece no, era Alleanza Italiana, Fratelli d'Italia. Ma ha detto che se veniva eletto, se fosse stato eletto, avrebbe coperto tutto quanto con motivi floreali. Scusi, in regia non abbiamo capito bene la... Infatti volevo ricordare che non è stato eletto. E quindi cosa farà lei con queste scritte? Lo denuncerà? Prenderà provvedimenti? Dipende da chi è amico. Ah, questo... Sai com'è? Siamo qua. Figlio di questa. Va bene, io inviterei il nostro presidente a rimanere con noi. Magari dopo vuole aggiungere qualcos'altro. Sì, chiaramente, rimanga con noi in collegamento. Vorremmo presentargli il nostro prossimo pezzo. Un pezzo, sì. Un pezzaccio. Praticamente io per diventare presidente della regione sto imparando anche le altre lingue di questa terra. Sì. Per esempio, figlioli, questa è. Però io ve l'avevo detto. Persona colta. E voi ridevate. Non ci credevate. Chi ma questo è successo. Questo è successo. Beh, abbiamo un presidente della regione colta e questa cosa ci riempie d'orgoglio. E ringraziandola per il suo intervento, la invitiamo a rimanere con noi. Oh, perché vedi che io ero compagno di corso di Pino Nano. Non abbiamo combattuto l'esame a Siena. Ah, e quindi dalle parti nostre. Buono, buono, buono. Questo è interessante. È talmente colto che va a raccogliere le olive. Comunque. Comunque. Peccato. Comunque, il prossimo pezzo è un pezzaccio a livello significativo per noi. Cioè? Si commenta da solo, i qualunquisti. I qualunquisti. A proposito di nomi, scambio di nomi, uso improprio di nomi. C'è gente che va a comprare il pane con i nomi. Ma andiamo a comprare il pane con fuori dei nomi. Nomi. Quindi dedichiamo agli amici del nord questa bellissima canzone. Ai nostri cari amici del nord che quando vogliono nord sanno Calabria. Andare a comprare il pane. Nord Calabria. Nord Calabria. Provincia di Cosenza. E ringraziamo ancora la presenza del nostro presidente della regione Mario Oliverio. Grazie. L'applauso per favore della regione. Resti con noi, presidente. E volevo ricordare l'ultima cosa, poi me ne vado. Veloce, signor presidente, siamo stretti. Che grazie a me abbiamo fatto i trasporti Nord Calabria. Ah. Esiste davvero una realtà consolidata nel nostro territorio, Trasporti Nord Calabria. Okay. Prendete i Trasporti Nord Calabria, Nord. A Rusud da Calabria, non ci dovete andare a fare niente. Ok, va bene. Vai con i qualunquisti. Vai con i qualunquisti, grazie presidente. We'll be right back. Il nostro regista è diventato proprio un corridore, una persona seria. Conta la rovescia. No, però a me oggi manca la presenza delle nostre signore, comunque, se proprio devo dirlo. Sì, la signora Micuzzo e la signora Pina è da un po' che non litigano in diretta. Dovremmo rinvitarle, sì. Ma perché signora... avevano vergogna del presidente? Forse sì. Signor presidente. Signora Pina, adesso che il presidente se n'è andata, vuole dirci qualcosa? Allora, stavo dicendo perché scusate, io mungia o pulsante. Sì, signora Pina. Allora, insomma, non è che io ci sono aiuto a votare perché in gerente chi non là, chi è il presidente là, chi non la live, chi ha la lampadina, i palla palla, chi sì. Insomma, non è che mi convince a tanta cosa, insomma, ha fatto uno cazzo qui. Poi, chi ne avete votato? Pinuzzo Gentile, mannaia alla Madonna. E quindi lei sta dicendo, signora Pina, che non è andata a votare non perché stava rocchiando le olive, come ha detto... È un'indigna, olive, figli. Cioè, ma poi... c'era pure la canonizzazione di quel beato Nicola di Longobardi, quindi lei magari era incollata alla televisione. Vero, vero. Ma manco così cose mi indicano, sai, ormai la vita mia l'hai fatta, i santi sono santi. Cioè io avessi pensare a uno che è morto 200 anni fa, un saggio che hai fatto ieri sera, figli. Ha ragione. Diciamo, signora P, dite la verità. Voi signora non avete Micuzza. Votato perché non avete avuto il piacere quando gliel'avete chiesto. Io non ci chiesto solo piacere, c'è che se per piacere non mi imbrattavano i muri e l'hanno imbrattato. Chi è stato la battaglia? Si ricoglie una munizia, è una ricoglia. E chi è lo comune? Chi è l'altro Maruzzo? Ma vediamo che fa, ho i lampadini. Dice che amore, per ospitare tutti i rasi. Sì. Se hai problemi di ospedale, rivolgiti a Maruzzi, palla palla. Ecco, perfetto. Stiamo parlando sempre del nostro presidente della regione, giusto? Non lo so, il vostro, io abito fuori regione. Questo è vero. Signora Micuzza... Calcio libero come le sezioni italiane all'estero. La Dadar. Dici che l'anno prossimo a calcio libero voteranno via posta prioritaria. Insomma, ma chi sei il presidente dei seggi di Castro Libero? Come? Invece che è al Gabbio, Argabbio. Non gli va nessuno al Gabbio. Argabbio. E quindi, a proposito di Gabbio, a proposito di denunce, a proposito, abbiamo una notizia medio seria. Sì, a proposito dello scandalo del fatto che in Italia l'informazione fa cagare e anche cui poi mi legherò per dire una cosa importante in Albania dopo. No. Ecco. Sì. Ecco, praticamente anche le denunce ultimamente sì, hanno le gambe corte sì. Perché prima si denuncia la gente su Facebook e poi si denuncia in procura e poi è il caso di Jacopino. Aspetta, chi è Jacopino? Voglio capire una cosa, cioè io non l'ho letta questa notizia, quindi mi sto facendo un'idea. Notizia famosissima. Sì. In modo che lo si spagna. Sì. L'hai già sì. Diffamato. È intimidatoria sì. La questione. E poi se quello continua poi passi diciamo a chi la di fissa che la denuncia vera e propria. Sì. Perché praticamente Enzo Jacopino, che sarebbe il presidente dell'Ordine dei giornalisti, ha annunciato su Facebook la decisione di presentare la denuncia a due procure. Due, non una. Quella di Milano e quella di Roma. Perché cosa? Alla GCOM, cioè al Garante per la Protezione dei Dati Personali del Comitato Medi e Minori. Sì, ma perché cosa? Ha denunciato praticamente, lui dice nel suo post su Facebook, ho firmato la prima denuncia esposta nei confronti della signora Barbara D'Urso. Signora Barbara D'Urso, signora. Il femminicidio non si consuma solo con l'uccisione di una donna, ma oltre la morte, anche con l'oltraggio della sua vita e a quello della sua carne, i suoi figli. Cioè, di cosa stiamo parlando? Praticamente la D'Urso ha intervistato nel suo celebre programma televisivo. Come si chiama quel coso che si fanno a New York? David Letterman Show. Le mine di Barbara D'Urso Show. Praticamente in questo programma che lei conduce da parecchi anni, ma che non, secondo me non se la fila. Io non l'ho mai guardato. Sì, meno male. Praticamente sta tipa, la D'Urso, ha fatto un'intervista a un amico di Elena Celeste, che sarebbe la donna scomparsa il 24 gennaio e trovata morta a metà ottobre nell'Astigiano. E praticamente tipo... Durante l'intervento, è stato aspramente criticato sul web questo intervento perché vi sono state ripetute le azioni sulle relazioni della vittima. Ah. Quindi questo programma della D'Urso è molto offensivo. No, è molto famoso per le i casi umani, diciamo, perché la D'Urso trova la D'Urso è il primo caso umano in quanto sì, praticamente lei che fa? Rintraccia qualcuno, qualche donna che ha perso la figlia, un caso così, cioè ci fa domande e strappa lacrime in diretta, tipo, dici, come ti senti? Come cazzo vuoi che mi senti? Sì, infatti sempre la nostra enciclopedia affidatissima di fiducia commenta tipo alcune riporta alcune citazioni di Barbara D'Urso e su Barbara D'Urso. Sì, infatti lei dice io che sono madre. Mm-mm. Tipo, beh, introduce i suoi ospiti con delle frasi tipo. Che è questa? Questa è la frase tipo? Tipo, questo argomento mi sta particolarmente al cuore. Oppure Rosso di sera, bel tempo si spera. A Napoli si dice. Oppure, tipo, certe volte fa delle uscite alla giurato. Tipo, un saluto ai ciechi che ci stanno guardando. Questo quello è stato epico, veramente. È vera, questa cosa è successa davvero. Sì. Vai, prego, prego. E praticamente lei è riconosciuta nella nostra società come una procace vrasciaiola affetta da sindrome di Peter Pan. Come? Procace chi? Vrasciaiola. Vrasciaiola. Boh, non so che non sappiamo dire. Che cosa voglio dire. Vrasciaiola o vasciaiola? Vasciaiola. Scusa. Importanti momenti. Che vuol dire vasciaiola? Da noi si potrebbe tradurre tipo tamarra. Ma anche una vaiassa. Sì, ma la vasciaiola è peggio della vaiassa. Cioè più... siamo oltre, diciamo. Quindi Barbara D'Urso. Se la vuoi mettere su questo piano. Anche se io non mi spingerei fino a tanto, però sì, diciamo. Ma è che non capisco semioticamente e semanticamente la gravità della questione. Perché non ti spingeresti a tanto? È enorme proprio. È proprio enorme, sì. È proprio una cosa idillica. Tu non puoi capire. Io non posso capire. In pratica vorrei aggiungere una cosa. Che praticamente ci sono dei titoli, dei requisiti per partecipare ai programmi dell'adulto, cioè? Dell'adulto. Cioè? Praticamente il primo sta che devi avere un quoziente di intelligenza necessariamente inferiore a meno 45. Perché se no ti prendono. E per, sì, scusa. Male cresce figlia, male cresci. Esatto. Per verificare questa cosa... il candidato dovrà sostenere una conversazione di almeno 20 secondi con Costantino Vitaliano su un argomento a sua scelta. Tipo, ricordate chi è Costantino Vitaliano? Purtroppo il belloccio sì. Di Uomini e purtroppo Donne. Sì. Quella minchia. Purtroppo. Andiamo avanti. Ok. L'ospite maschio dovrà essere ineluttabilmente essere lobotizzato. Lobotomizzato. Stasera sono un pochino dislessica, più delle altre sere. Scusi, lei stia zitto, per favore. Glabro... per natura o depilato, palestrato e grondante di brillantina e autobronzante. Poi deve indossare una camicia aperta almeno fino all'ombelico. Sì. Tamarri. E dare prova di non intendersi di qualsiasi discorso venga intavolato. Tamarri. Poi l'aspirante ospite femmina dovrà obbligatoriamente essere dotato di una vocetta querula e fastidiosa. Tipo così, Barbara, io in realtà quando lui mi ha toccato il culo io ero consenziente, però poi quando me l'ha toccato non più e quindi è scattata la violenza su di me. E infatti si aggiunge che se è un ospite tipo della Dulce. L'ospite femminile deve essere di norma, deve dire cazzate più tremende. Perché con questa voce 2 più 2 fa senza dubbio 84, perché quando tu fai un calcolo devi farlo con oggettività, perché tu non mi puoi guardare in questo modo, va bene quando parlo, perché quando parli con me devi parlare con una certa, perché io mi devo rispettare, va bene, mi devo rispettare. Barbara, Maria, Barbara. Ok. Poi dovrà essere dovrà avere il seno ritoccato o le labbra e o gli zigomi e o i denti e i polpacci. Ritoccato si intende che viene toccato di volta in volta. No, vuol dire che adesso non riesco più a aprire la bocca da un sacco di giorni. Perché però avevo una notizia importante su Barbara D'Urso, che ho sentito in bagno, l'ho letta. Però poi io devo dire una cosa, va bene. Oltre al suo numero di telefono privato e anche quello di lavoro. C'era scritto che la Barbara D'Urso è una procace baldracca, in quanto già nell'utero si insaccava il tubo, come si chiama? Già quando era feto? Quando era feto, era già fetici, si infilava il cordone ombelicale nella vagina per procurarsi degli orgasmi. schifo persona. Mi ricordiamo la nostra campagna del nostro papa, meno bambini più bambini. Ringraziamo Pingu per essere intervenuto alla trasmissione. No, tornando sul giornalismo, io volevo dire una cosa seria però. Io ti devo dire prima una cosa. Dimmi. A proposito di violenza sulle donne, tu, sì? Soco, praticamente c'è un'ultima ora. Che a proposito di violenza sulle donne, sempre per i dati contro l'allattamento al seno, perché è cannibalismo. È cannibalismo, sì. È chiaro anche che se è vero. I pediatri si scagliano contro l'allattamento al seno. Cannibalismo. A parte di figura di Pompini. Non aggiungo nient'altro. Aggiunto io. Mi fermo qui. A proposito di violenza, sì, una cosa seria, ricordiamo davvero che ieri è stata la giornata contro la violenza. È vero, questa cosa è vera. Ricordiamo che va sempre. In radio non si vedono noi. Combattuta la combattuta. La violenza. Ricordiamo che l'unico modo per cambiare un fidanzato violento è cambiare fidanzato. Abbiamo lo slogan. Abbiamo una notizia anche per il presidente che è uscito fuori un attimo a fumare una sigaretta, per il presidente Mario Oliverio, sì, della regione, che parlava di treni. Trenitalia rilascia una notizia che praticamente nel 2020 no, ci saranno, stanno costruendo dei treni che usciranno nel 2020, che saranno capaci di andare indietro nel tempo. E quindi a quando c'erano i treni? Quindi arrivano in orario. Quindi, sì, esatto. Perché in realtà hanno ritardo, vanno indietro nel tempo e arrivano in orario. In orario, giusto. Però stavi dicendo, legandomi a un discorso, tornano indietro nel tempo a quando c'era lui, capito? E quando c'era lui i treni arrivavano in orario. È chiaro che era tutto chiaro. Come sono avanti quelli di treni. Stavo per dire Forza Italia, non di Trenitalia. Pensa tu che lapsus. Comunque, ricordiamo il nostro sponsor ufficiale della radio, che è Tre Sud. Sì, ricordiamo il nostro, sentirete presto parlare di noi, Tre Sud. In ogni caso, parlando di cose serie, visto che tu hai parlato di violenza sulle donne in modo, diciamo, semiserio, parlando di giornalismo, quindi legandomi a Barbara D'Urso, parliamo di giornalismo serio e volevamo fare, insomma, sapere ai nostri ascoltatori, ma ne continueremo a parlare, che in aiuto, in soccorso del Manifesto, il Manifesto noto giornale che se la sta passando male come di consueto, come di consueto, perché purtroppo, vedi tu, ricordiamo il Manifesto, il regia magari ce ne sanno parlare meglio, un giornale che appartiene a una cooperativa, giusto, di giornalisti e lavoratori, diciamo, del settore. Diciamo che hanno tentato da sempre di tenersi un pochino fuori da quelle che erano logiche digitali, cose del genere, ma si sa che ormai stampa italiana, ma in generale, insomma, sono sempre più soggetti a questioni più economiche. Che altro? Tu mi dici, alza la voce. Non si sente, abbassi il sottofondo e alza la voce. Ah, questa è, scusate. Questa è. Dicevamo appunto che il Manifesto invece ha cercato sempre di avere una garanzia di qualità, che era data appunto dal fatto che... Sì, l'indipendenza, diciamo, da quella che sono le logiche di mercato che hanno investito anche la, diciamo, la carta stampata. Poi mettici che comunque ovviamente non hai un elevatissimo numero di lettori, eccetera, eccetera, riesce ad andare in crisi un attimo. Sì, infatti, e anche perché loro dicevano il fatto che le notizie online ha portato, sì, sì, perché per esempio sul Manifesto c'è una sorta di abbonamento, se vuole, le notizie online, sì, giustamente da pagare per evitare la pubblicità, che purtroppo però i lettori non tanto pagare. Sì, però insomma il Manifesto fa questo appello, insomma, a dare una mano, anche perché dice il giornale è anche vostro, perché diciamo siete voi che ci mettete la parte economica, nel senso voi pagate le notizie che poi ricevete, non è qualcuno che le paga per voi, quindi insomma pensiamoci, magari compriamo un po' più spesso il Manifesto, soprattutto magari riusciamo a fare una donazione. Non lo comprate di lunedì. Perché non di lunedì? Perché non esce. Esatto. Insomma, se anche volendo fare una donazione sul sito del Manifesto troverete... Vedete, con la scusa che non è lì, c'era andato per comprarlo e non c'è. Esatto, non diciamo minchiate. Si può aiutare il Manifesto facendo donazioni di varia natura, comprandolo, insomma... Ricordiamo che dovrebbe esserci un appuntamento proprio qui in Calabria. Importante, all'Università della Calabria proprio, un appuntamento molto importante il 9 dicembre. Quando? Il 9 dicembre in aula Mario Alcaro qui all'Università della Calabria alle 11. Aspetta, Mario Alcaro, il 28 qualcosa. Ora non mi ricordo. Dovrebbe esserci anche Giuliana Sgrena, vero? Sì, ci sarà esattamente Giuliana Sgrena, che ricordiamo giornalista del Manifesto, ricordiamo la vicenda che l'ha vista protagonista, è stata rapita nel 2000. C'è ancora la guerra in Iraq con l'Italia. 2000 e qualcosa. 6. Insomma, comunque si è vista, è stata protagonista di un fatto abbastanza grave. È stata rapita proprio mentre era sul posto per portare avanti un'inchiesta per il manifesto. No, era proprio la corrispondente di guerra. Sì, certo. Del manifesto. E lei continua a seguire, insomma, queste questioni e ne parlerà appunto il 9 dicembre con l'Università della Calabria, presentando il suo ultimo libro. E soprattutto venite anche per, insomma... Sì, fu rapita nel 2005. Fu rapita nel 2005, bravissima. A Baghdad. Venite per sostenere anche il manifesto, la causa del manifesto. Tra l'altro, insomma... io ho letto che è uscito da poco sul manifesto anche un appello da parte di una serie di docenti e ricercatori, sì, dell'Università della Calabria, 43 firmatari di questo appello. Facciamo qualcosa perché, insomma, diciamo che la stampa ormai non ci fidiamo più. Il manifesto non aderisce a nessun partito politico. È spiccatamente di sinistra, ma non è di nessun partito politico. Quindi... E questo è anche uno dei motivi per cui, insomma, si trova... accorto, diciamo, di esatto, soldini. Esatto, vi dirò di più. Oggi leggevo qualche numero. Per legge i giornali anche portati avanti dalle cooperative devono avere un tot di finanziamenti pubblici. Questi finanziamenti, da quando ha preso le mosse, insomma, la pubblicazione del manifesto ad oggi, sono più che dimezzati. Insomma, sono dimezzate anche le copie, quindi siamo sensibili a un tipo di giornalismo vero. Non parla di cazzate, più libero. Magari facciamoci un pensierino. Soprattutto è un grande esempio di autogestione delle proprie risorse, che va avanti da più di 30 anni. Un'autogestione dell'informazione da parte proprio dei giornalisti in prima persona, e come si gestiscono anche le risorse che entrano, che hanno a disposizione. Sì, anche perché... Ma scusate un attimo, sì. La rubrica ciota sul manifesto è ancora fatta, costituita dalle vignette di Vauro? No, Vauro non c'è più da un po' di anni. Sono stati scazzi. Scazzi. E insomma, va bene, quindi vediamoci. Chiude il manifesto, chiude l'ultimo giornale libero, capisci? Anche che ci racconta una storia di un certa epoca dell'Italia, capisci? Perché pure l'Unità, con tutto quello che è andato a finire ultimamente, ma negli anni 60 e 70 era come anche il manifesto era spesso una forma di appartenenza. Sì, poi diciamo che l'Unità si è scacata, infatti poi chiuso. Però diciamo che la coerenza interna al manifesto continua ad esserci, sì. È di quello che stiamo parlando. No, parlavo, dicevo, è l'unico di appartenenza, rimasto, dici tu, rimasto con una storia, perché pure l'Espresso è una storia più tanto. Sì, chiaro. Quindi, insomma, siamo sensibili, magari compriamolo ogni tanto. E quelli del manifesto scrivono che loro sono fatti due calcoli, che se ognuno dei lettori effettivi donasse 20 euro, io la mi sa che cazzo vi costa. Sì, a me mi costa un pochettino, però diciamo che magari mettendoli da parte appositamente, se ognuno donasse 20 euro al manifesto, in due giorni avrebbero sanato il problema. Siccome rischiano di nuovo la liquidazione coatta, io direi che... La liquidazione coatta, che non vorrei che vendano a chi vuole. Esatto, rischiano proprio di perdere il nome, di perdere tutto. Comprare chiunque. Esatto. Quindi lavoriamo per mantenere l'identità di questo giornale, la forza di questo giornale, la libertà di stampa, che diciamo è più che mai utopica in questo paese, come insomma un po' dappertutto, ma senza fare i qualunquisti. Facciamo qualcosa ogni tanto. È l'unico giornale che, quando scrive gli articoli sulle manifestazioni, non riporta i dati dalla questura. Quindi ecco, questo la dice lunga. Quindi insomma scollettiamo, partecipiamo il 9. Il 9 dicembre lo ripetiamo in aula Mario Alcaro alle 11 con Giuliana Sgrena per il manifesto. Si parlerà anche di una serie di cose importanti. Vi aspettiamo lì. Aiutiamola. Dopo l'8 dicembre, wayu, però dai. Venite, yeah, yeah. Okay. Noi ci saremo, quindi magari saremo tutti insieme appassionatamente lì. Di persona, non volete conoscere la signora Pina? Siamo finiti col cliente, siamo sul giornale. Quindi aiutiamo l'informazione libera e mandiamo un pezzaccio. Mandiamo un pezzaccio, lo dedichiamo agli amici del manifesto. Che scusa, della regia, che

Un giocatore frustrato di scacchi ha fatto partire una retata di polizia allucinante. Tu dici come? Come? Praticamente sto povero Cristo stava giocando agli scacchi al computer da ore, continuando a perdere miseramente, ma proprio male, e io lo capisco su questo. E che è successo? Che a un certo punto, all'ennesima volta che ha perso, si è messo a gridare come un dannato. E poi? I vicini hanno chiamato la polizia. E quindi c'è stata questa mega retata. Esattamente. E infatti abbiamo una registrazione dell'urlo. Questi sono le urla straziate, strazianti. E come fanno a intervenire la polizia? È intervenuta la polizia di Oslo quando la gente chiedeva di parlare con Renzi. Esatto, dici tu, no, per un urlo, non per un urlo del genere. Questa però è l'altra polizia, è polizia norvegese, quindi polizia del nord estremo. E niente, la polizia l'ha presa con filosofia. E infatti, dalla pagina ufficiale della polizia di Twitter, perché a quanto pare c'è una pagina che dice così la notizia, per tranquillizzare i residenti hanno twittato: siamo sul luogo, solo un giocatore di scacchi frustrato perché perde continuamente contro il computer. E quindi, insomma, grandi, polizia di norvegese, di Oslo, grandi. E questa era la notizia, stupida, però... Era toga. A proposito del nord, di sì. Gente del nord. Gente del nord. Abbiamo il nostro mito. Cioè? Matteo Salvini, che Non è Renzi. Sti cazzi di nomi nella politica si ripetono. Maruzzo chiude, si chiamano Maruzzo palla, Maruzzo. I Minghiu si chiamano tutti Matteo Salvini, Matteo Renzi. Matteo Renzi ha inaugurato i giochi senza frontiere. I giochi con frontiere, domanda cioè? Scusa. Cioè di che si tratta? Praticamente, fammi aprire la notizia e te la narro subito. Sì. A Celestopoli, in Padania. Sono giorni di emozioni altalenanti per il leader della Lega Matteo Salvini. Se da una parte ci sono i contestatori che si fanno sentire nei modi più svariati, come mettersi rispettosamente sotto le ruote della sua macchina, dall'altra i sostenitori aumentano in gran numero. Il leader è soddisfatto nel vedere quest'ondata verde crescere sempre di più. Insieme al suo staff, i consiglieri Nerboruti e Nendertaliani ha deciso così di studiare ulteriori strategie per accrescere il consenso. Sì. Quindi che è successo? Durante la riunione di gabinetto, il segretario e i suoi fedelissimi hanno visionato delle vecchie videocassette dei programmi degli anni 70-80 e dove hanno trovato tipo il gioco dell'oca, eccetera, eccetera. E quindi hanno deciso di fare giochi con le frontiere per non far passare lo straniero. Non passa. E quindi praticamente le regole le stanno ancora preparando, però insomma noi lo sappiamo già in cosa consisterà questo gioco. Sì. E praticamente Salvini ha fatto una premessa su questo suo progetto, dice: non dateci dei razzisti, sono giochi aperti a tutti gli stati con frontiere chiuse. Ah, ottimo, bello. Quindi insomma aspettiamo nuovi sviluppi. Novità e sviluppi, sì. Io volevo dare un'altra notizia. Posso dire una cosa seria? Sì, vai, chi c'è tia? Sì, che sono abbassato, no. Che serietà, diciamo. No, volevo lanciare una notizia ciota, ma in realtà non è una notizia vera del manifesto, appunto. Sì? I soli di sinistra. Sì. Partecipa alla campagna del manifesto. Donate ora sul nostro sito miriprendoilmanifesto.it. Abbonatevi. Con i vostri soli. Costruiremo un quotidiano e un futuro più luminoso. Perché soli? Vediamo. Lo so, era per darti l'assist, io lo so già. L'obiettivo è creare la prima grande campagna pubblicitaria collettiva. La prima campagna pubblicitaria partecipata da parte dei lettori, i cui visual crescerà col contributo creativo di campagne e compagni, donne, uomini, bambini e anziani, che le arricchiranno inviandoci i loro soli di sinistra, da ogni angolo d'Italia, Europa e del mondo. Sarebbe bello entrare nel Guinness dei primati per aver creato tutti insieme la prima campagna pubblicitaria globale e in qualche modo comunista della storia della pubblicità. PS, ma non mandateci solo i soli, mandateci pure i soldi. Magari, quindi vabbè, insomma, continuiamo a... È una cosa simpatica. No, è una cosa bella, l'avevo visto. Continuiamo ad hashtaggarci, insomma, salviamo il manifesto, proviamo a farlo almeno. Io volevo dare un'altra notizia che pare ciota, però non lo è, cioè nel senso è reale. E niente, praticamente a Stoccolma dici che se tu vai in taxi c'è lo psicologo. Andiamo a Stoccolma. Lo sapevi? No, non ho sentito. C'è una compagnia di taxi di Stoccolma che ti garantisce insieme alla corsa il servizio durante la corsa di uno psicologo. E non è l'ercio. E non è l'ercio, aiuto. È proprio da. Però è fuori di testa.it. Ah, quindi diciamo che siamo lì. Invece no, è probabile, perché lo sai che la Svezia e tutta la Scandinavia sono i primi paesi sì. al mondo come numero di studenti. Sì, lo so. Beh, ci devi mettere pure che è parecchio freddo e buio da quelle parti. Ma si dice che questa cosa è legata all'ambiente in cui vivono, che è troppo perfetto. Troppo, sì. Non c'è mai un sussulto. Non ti senti mai vivo, non vedi mai che attraversi la strada. Venite un po' in Calabria e vi io proporrei proprio il viaggio in Calabria. Li vedi proprio casi, pare che sono otto dei cicani. Facciamo lo scambio culturale per venite in Calabria per non rischiare non suicidio. Non suicidarti, vieni in Calabria. Non suicidarti. Venite, venite a cos'è. Oh, glielo dovremmo proporre a Maruzzo. Ma Maruzzo per la palla, come nuovo presidente. Presidente è ancora qui, mi scusi. Alice. Presidente, abbiamo una proposta. Alice. Alive, non Alice. Presidente. Pronto, sì. Pronto, sì. Salve, signor Presidente. Scusi se la disturbiamo ancora. Scusate, ma abbiamo una proposta sì, seria. Il ristorante qua, all'Arco del Giaccio, mi stava mangiando il lago del Cice. Ecco. Noi volevamo farle una proposta seria. Seria. Stavo giusto pensando di organizzare degli scambi con... No, io sono cristiano. Queste cose... No, di questo genere. Non di questo genere, che secondo anche me le piace pure gay, a lei. Tutte le crescenti. Ecco, sì, cioè, no. Facciamo sposare a tutte le crescenti. Cioè, il primo anno possono girare mano nella mano. Il secondo anno... possono darsi un bacino sulla guancia, il terzo anno possono baciarsi in bocca, il quarto anno possono fare la pipì in bocca a Giovanale. Ecco, perfetto, Giovanale. Oh. Bene, comunque noi volevamo proporle non questo tipo di scambio che intende lei, uno scambio, diciamo, tra culturale. Culturale, ecco, esatto. Così si chiama. Ma si chiama, no. Si chiamano così. Allora, guardi, lo studio è... Il nostro progetto sta... praticamente prima, poco fa, abbiamo letto un articolo su un sito veramente serio che è... Per la prima volta. Cos'è? Anza? No, Fla, qual era? Era fuori di testa.it. Ah sì, in effetti sì, è più serio dell'Anza. Praticamente in dov'è? In Svezia. Svezia, mi pare. Svezia, capitale Stoccolma. Abitanti 2.200.000. Siamo contenti di vedere che il nostro presidente della regione è molto preparato. È ferrato in geografia. Praticamente tipo in Svezia il servizio taxi offre pure il servizio psicologo in macchina. Sì, a Bangkok il servizio taxi offre pure il bambino in macchina. Quindi stavamo pensando, siccome questa... signor Presidente, rimanga serio per favore. Se te vai, senti che trovi. Quindi Flavia, stavamo pensando a sì, fare... Siccome si dice, insomma, che si dice, si è rilevato che i paesi scandinavi siano quelli con un più alto tasso di suicidi, e si pensa che questo sia dovuto a che cosa? A una esatto. depressione dovuta al discorso della troppo benessere, troppo ordine, troppo i treni ordine. Puntuali, pullman dappertutto, esatto, ti portano pure nelle treni. Mandateci i partigiani. Tutto va come dovrebbe andare. No, noi... Io sono stato partigiano. Ecco, ci interessa proprio in questo momento. Pensavamo appunto di fare convinto. convinto. Pensavamo di fare uno scambio culturale con persone provenienti appunto dai paesi scandinavi, perché? Che ci parla? Perché? E come ci parli? E mettete lavoro! Date lavoro a degli interpreti! Ma gli interpreti dello svedese dove li vado a trovare? Dove li troviamo? No, possiamo dare lavoro agli stranieri! Lavoro agli italiani! Con i cervelli italiani migrati! Facciamo dei corsi di formazione per svedese! Dei percorsi di formazione. Ok, sì, ci sto! Più o meno quante persone ci vorrebbero? 10, 20? All'inizio forse una ventina. Buon 20 voti, ok, sì, ci sto. Va più, bene. Più la famiglia, quindi sì, buona, in media... Bravo, vedi che capisci, trovatemi gente sposata con tanti figli che votano. Ok, va bene. Ringraziamo l'intervento del nostro presidente. Se mi trovate i voti, io vi finanzio. Va bene, grazie signor presidente. Con i soldi della Calabria, non con i miei, ci tengo a precisare. È giusto. La cosa è che il turismo in Calabria, il settore turismo, allora, avrebbe i suoi vantaggi. Sul settore turismo, ma tu mi devi dire... A Bangkok, quanto turismo c'hanno? Parecchio. Ma l'avete mai visto a Bangkok? No. Io sì. Allora, Bangkok praticamente, che fa una città di merda, fa schifo, puzza. Lo sai che ci va a fare la gente là? Va a mettere. Facciamo anche noi turismo sessuale. Un Met Advisor. Bravo. Dopo Trip Advisor, Met Advisor. Tu ti immagini atterri alla Mezzia, su quel viale ti trovi puttane. ok? Sulla Salerno Reggio Calabria possiamo fare un nuovo servizio d'estate, invece sì, di dare l'acqua, uh-huh, quando si ferma il traffico, che c'è traffico, mettiamo delle ragazze o dei ragazzi, dipende da quindi togliamo gli uomini ANAS e mettiamo le donnine ma pure gli uomini, basta che siano ai tanti. Io, le donne ANAS, le donne ANAS, sì. Ok, può presentare. Se, se vogliamo aumentare il turismo, qua questa è. Tu ti immagini, se facciamo ingiappettare i bronzi di Riace. Cioè, proprio gli facciamo un buco nel culo. Come no? Facciamo? Gli facciamo un buchetto nel culo. A cosa? Ai bronzi di Riace. Perché? Così i gay possono venire a ingiappettarsi i bronzi di Riace. Sì. Io già ci vedo attaccato a là Sgarbi. Che lecca Sgarbi. Turismo sessuale. Va bene, ringraziamo il presidente perché secondo me qua siamo un po' lunghi. Sì, dai, lo ringraziamo e speriamo che possa tornare a trovarci. C'è un'idea, ce ne abbiamo statue femminili in Calabria. Penso di sì. Possiamo mettere un vergicristallo sulle minne. Ecco. Così la gente ci viene e no, dopo... Grazie, ringraziamo il presidente della regione Calabria. Regia, un pezzo. E poi volevo lanciare l'ultima rubrica che è The Motivational Channel. Ok, dopo il pezzo. Centro se le metti a 90, lo spazio è poco se tieni la panza, o se uno è più alto di 1,90, lividi e crampi in abbondanza, sai quanti graffia la protuberanza. Sento un rumore tipo scoreggio, perdo la marmitta e anche il boccia a testa. Cazzo, questa panda è fatta di cartapesta. La cinghia che slitta, la gente si scansa, pensa anche passi un'ambulanza. Siamo tornati, questo sì, è un pezzaccio, no? Un pezzaccio del Joe Boy. Beh, io... Senti, dici un po' questa nuova rubrica. Ecco, io volevo lanciare una nuova rubrica. La nuova rubrica si intitola The Motivational Time. Lanciala. The Motivational Time. Buttala. The Motivational Time. Grazie alla sigla riciclata dalla regina. Ecco, il The Motivational Time è una nuova rubrica di Fuori Onda Radio, nello specifico di Giotto dall'Etero, che si occupa di trovare notizie particolarmente demotivanti In chiusura proprio di trasmissione. Proprio come direbbe un ragazzo, che ti fanno calare le palle. Esatto, quello che poi quando tu chiudi la radio o comunque chiudi la pagina del browser, nel nostro caso, dici ma vaffanculo. Bene. Che cazzo studio a fare? A fare, esatto. E nella fattispecie abbiamo due notizie importanti, interessanti. Sì. La prima, sempre riportate da testate giornalistiche, pum, al muro di spessore, ovvero La Repubblica. Una notizia alla quale si potrebbe rispondere è al popolo che cazzo gliene frega, e invece a noi interessa perché La Repubblica ha stilato una classifica, o chi per La Repubblica, insomma. È una classifica di personaggi dello spettacolo, dello showbiz internazionale sotto i 30 anni che guadagnano più di 20 milioni di dollari l'anno. Salute. Al primo posto abbiamo... Un attimo. Al primo posto abbiamo niente poco di meno che Justin Bieber con Ben. Non finisce mai sto rullo di tamburo. Non c'è... Justin Bieber con 80 milioni di dollari. Chi? 80 milioni di dollari l'anno. Chi? 80 milioni. No, chi? Justin Bieber. E chi ne è? Appunto, appunto. Sul podio insieme a lui si trovano rispettivamente uno e due. Lo so, infatti potevamo scaricarne uno un po' più soft. Stiamo cercando un rullo di tamburi. Secondo e terzo posto ai One Direction e Taylor Swift, rispettivamente con 75 milioni di dollari l'anno e 64 milioni di dollari l'anno. Appunto! Subito dopo di loro... Ma Patti Pravo? Patti Pravo non c'è. Subito dopo di loro arrivano... È arrivato troppo presto. Che se... Che vivevo cioè, da problemi sola. Precoce. Sto cercando un attimo di ecco. Capire. Subito dopo di loro arrivano Bruno Mars e Rihanna con 60 milioni e 48 milioni di dollari l'anno. Quindi Rihanna per spogliarsi e fare la troietta nei video. L'artista. L'artista guadagna solo 48 milioni di dollari. Ebbene sì, e invece tu Marina che cosa fai? Cerco il passione. Cerco di laurea. Esatto. Fuori corso da mille anni. Ti fai il culo per fare l'ingegnere e non guadagnerò mai nemmeno 10 milioni di dollari all'anno. Penso che non li vedremo mai in tutta la vita, non solo nell'anno. Insomma, seguono a ruota una serie di personaggi come Lady Gaga, Miley Cyrus, che è quella che si lecca qualsiasi cosa che gli danno in mano, Jennifer Lawrence, l'unica attrice di questa classifica è Jennifer Lawrence. Tutti gli altri sono pseudo, diciamo, cantanti così sciacquettini dello showbiz che Ciccio Pupo non conosce assolutamente. Invece Ciccio Pupo conosce benissimo Patti. Ma Patti chi? Patti, bravo! Patti, un applauso! Facciamo un applauso, bene. Ecco, è sempre per la rubrica The Motivational Time. Passiamo alla prossima notizia, sempre da Repubblica. Sì, praticamente sulla sezione economia e finanza di... Sempre per parlare di Repubblica.it, sempre di giornalismo a un certo livello. E sempre per parlare di, insomma, cose che ti fanno andare a dormire felice la sera. Voi ascoltatori, proprio voi che ci state ascoltando, quanto guadagnate al mese? Se guadagnate qualcosa al mese, se trovate un lavoro, perché prima di trovare un lavoro uno fa lo stage, il tirocinio, fa lo stagista. Allora praticamente un piccolo ingegnere civile appena laureato, un neolaureato in ingegnere civile con il massimo dei voti è costretto a partirsene dalla Calabria, che ne so, nel Lazio, nella Lombardia, nel Lazio, che ti fanno fare uno stage. Lo stage ti fanno fare le fotocopie, ti fanno andare a prendere la gente alla stazione e ti fanno rispondere alla telefono. No, ma non ti pagano solo quei 400 euro, per favore. Non mi mancava nessuno. Io mi sembra la fatta stare zitto. Che adesso ho. Se gira, lo chiudi. Vivevo come la. Ma muti, per favore, non ti riesci a parlare. Tra fasi alterne e calare. Ma la Patti Bagliato, Patti Bravo. Ma non te l'ho chiamata Patti Bravo, te la sei chiamato da solo. Io me la chiamo da solo. Ecco. Non ce l'ho così lungo. Ecco. Dice, mamma mia. Oddio. Dicevamo appunto. In pratica che succede? Dico, è... Che nello... questa è la rettore. Basta per favore, questa è la rettore. Nel, diciamo, nell'immaginario comune lo stagista è colui che si spacca il culo e in realtà non prende niente perché le aziende o chi per loro... Ma tu che non prende niente. Aspetta. Se allora... spacca il culo come non prende niente. Ecco appunto. Allora parliamo, per... parliamo di cose serie. Invece su Nonciclopedia gli stagisti... Nonciclopedia, tra poco avremo la definizione da Nonciclopedia di stagista. Stagista. Comunque, Giovedì delle Lettere è come Sanremo. Dici che deve finire alle 11. Ma non finisce sempre, sempre. Speriamo di no alle 2 che sto morendo di fame. In ogni caso, appunto, nel linguaggio comune, quindi, stagista. Tu ti ammazzi a laurearti. Vabbè, Nonciclopedia non ha una sezione, ma la creeremo noi. Insomma, stagista praticamente... è colui che fa tanto, fa. Però allora, in cambio gli danno l'esperienza. Stagista nel, proprio nel, come definizione è giovane neolaureato di tot anni, non si sa perché. Che deve fare esperienza. No, che sta piegata a 90 gradi. Ecco, non dire queste cose che Ciccio Pupo aspetta solo allora, questo. Non è che io aspetto solo questo. È proprio, se tu vedi il contratto di lavoro, sì? C'è scritto che per finire questo contratto devi averla presa 10 volte nel culo e devi riuscire a evitare... un cazzo ammazzo, sì? In direzione ostinata e contraria che ti cerca di entrare dietro, ma tu una volta che hai finito lo stage saprai divincolarti tra queste cose e non prenderli tutti, solo uno, il più piccolo. Va bene, questo è chiaro. Cioè, quindi, scusa, è una cosa importante, è un momento di formazione. È un momento di formazione. Detto ciò, dove invece dove sta la demotivazione di questa notizia che ti viene solo la sbattuta della testa degli stagisti? Perché praticamente Google, praticamente, che fa? È a caccia di talenti, proprio di stagisti, che li paga circa $5,800 al mese. Chi? Ok, neolaureati che se ne vanno... nella Silicon Valley. Andrea, Silicon lanciamo Valley. L'hashtag tutti a Google, per favore. Qui si parla dai $5,800 ai $6,700 Curicaro. Per i ragazzi... Come si lavora da Google? Come si lavora da Google? Da quando lavori da Google, esci con i tuoi amici di Google, vai sulla tua Google Bike, ti fai la doccia nell'ufficio di Google ed esci, e devi vivere nelle Google House. Non sto scherzando. Davvero? Sì, perché così tu lavori sempre, tu sei sempre, sei amico, collega di lavoro e pure quando uscite... Una cosa alla colleghi, Olivetti, però ad altri tempi. No, qua però non è una cosa sociale, è che tu mentre te la sei fuori al culo a cena... Sì. Siete tutti i colleghi dell'ufficio e di cosa parlate? Di lavoro. E quindi così siete lavorate tu. Sempre. Esatto. Ma tu lo sapevi di quella bambina però in America, non mi ricordo, che scrisse una letterina al, padre, al datore di lavoro del padre che lavorava per Google? Per favore, caro, caro babbo Google, quest'anno potresti dare per favore una settimana di... pari al mio papà che non lo vedo mai. Quello gli ha risposto. Gli ha scritto, e l'ha licenziato detto, così. Gli ha detto sì, diamo al tuo papà una settimana di ferie. E ha assunto la bambina. E ha assunto la bambina. E quindi praticamente secondo Google è solo la Microsoft e Amazon che pagano profumatamente i loro stagisti arrivando, e questi ragazzi arrivano a guadagnare circa $5,500 e $7,000 pensa tu. Comunque, se non sei nel nuovo Job Act e in Italia poi parliamo c'era. Sempre male di questo Pigliamo governo nel culo ecco a proposito di prendersela nel culo nel sì. Nuovo Job Act hanno finalmente regolamentato anche gli stagisti che dicono? Se la prendono nel culo a tutte le crescenti. Cioè, non cominci subito a misure crescenti, scusa, ho sbagliato, perché parti dal cinese e arrivi a quello del Congo piano piano, non direttamente, non è uno stiamo shock. Parlando sempre di misure cioè, di misure di fanno crescenti di fallo sicuro è una cosa importante perché fino adesso qualsiasi fallo cosa protetto. Ti poteva arrivare qualsiasi cosa, adesso invece sai che dopo il cinese c'è quello di Bangkok, dopo quello di Bangkok c'è quello dell'Arabia Saudita, poi arriva l'italiano, il francese, l'inglese, il tedesco, l'americano e poi arrivano tutti gli africani e poi quando finalmente riesci a prendere tre del continente africano insieme puoi dire che puoi partire col contratto a tempo super determinato. E lo sapete cos'è il contratto a tempo super determinato? No, non c'è il contratto. Ah, okay. Niente, non è super determinato. Già abbiamo deciso che tu il contratto non ce l'hai. E quindi insomma... l'Italia però col Job Act assumerà questi stagisti. Questi stagisti assumerà pure fuga di stagisti. I portatori di fallo. Quelli guadagnano fallo. Quelli fallo. Ma sono stagisti quelli là? No, quelli sono strutturati. Fallo. Sì. Hanno fallo. Tempo indeterminato. No, li mettono fallo. Nelle colonne, no, ci sono fallo. Così fallo. Fallo. fallo. Just do it. Va bene, ragazzi. Io direi io, che sì, anche salutiamo Samantha tutti. Cristofo Retti. E chi ne è? Ah! Non ne abbiamo parlato. Vabbè, insomma, salutandola, ne parleremo la prossima volta. È la prima donna italiana nello spazio. Che su Flop TV si trova su. Non era Rosetta. Killa non è una donna, è un pezzo di pane. Scusa, che su Flop TV prima c'era una foto che con Samantha Cristoforetti con un meme era. E tipo, abbiamo capito la fuga di cervelli dall'Italia, ma così lontano, sì, insomma, torna. Ciao a tutti! Infatti, diciamo che Renzi se l'è vantata questo fatto che abbiamo la prima donna italiana nello spazio. Diciamo però, caro Renzi, che sicuramente con i tagli alla ricerca proprio continui. Che tra l'altro... Però che in tra l'altro è una cosa, in realtà è pagata, non dal, è chiaro, dall'Agenzia Spaziale Europea. Appunto, ma noi appunto non possiamo, appunto, non possiamo possiamo dare nessun dire tipo di contributo. La prima europea femmina nello spazio. No, no, allora, aspetta, la prima italiana femmina nello spazio, il fatto che sia italiana non sta a significare che noi abbiamo fatto qualcosa per lei, nel senso che questa povera Crista ha studiato in Germania e è andata lì. Noi chiaramente come sta, come nazione, non possiamo dare niente ma alla ricerca. Ma come quando diciamo che un italiano ha inventato la radio, ma non l'ha inventata in Italia. Perché l'Italia taglia le gambe. Io vorrei ricordare una notizia di un paio di giorni fa, che praticamente la Corte dei Conti ha bocciato il nuovo decreto universitario di finanziamento dell'FFO perché non quadravano i conti. E quando i conti non tornano? Non ci tornano. E quindi ha bocciato il finanziamento alle università pubbliche. Detto ciò. Comunque volevo ricordare che i nostri amici di... Ciotoflow. Gli amici del Ciotoflow, il collettivo informatico che si riunisce qua tutti i mercoledì. I nerd, non siete mai visti The Big Bang Theory? È chiaro. Cioè, vedete quelli come sono deficienti. Sì. Qua di più. Sono meno sfigati, ma sono più deficienti. Venite la più occupata tutti i mercoledì col Ciotoflow delle 6:30, collettivo di informatica e ciotie. Già mercoledì prossimo avremo un fluido non newtoniano che balla su una cassa. Esatto. Venite, vedete. Chiudiamo questa puntata stavolta. Ciao, sì, ciao. Ragazzi. Allora, vogliamo salutare Andrea da casa che ci ha aiutato con gli hashtag tutta la sera. La piccola Andrea. La piccola Andrea Malaticchia. Vogliamo ringraziare in regia la signora Pina. Mangiando la pasta, si fica proprio. Grazie a voi, signori. Ecco, esatto. Vogliamo ringraziare la signora Micuzza. Non c'è stata. Appunto. Vogliamo ringraziare il nostro presidente. Ciao a tutti da Balla Balla. A un culo a Chini l'Olivare. Esatto, grazie signor presidente della Regione Calabria. Ringraziamo Marina. Ciao, la regione di Cosenza. Grazie a Flavia. Grazie, ciao. Ringraziamo Maria Pagano che è stata fuori, ciao, tutto Maria. Il tempo. Ringraziamo i Ciotti del Ciotoflow. Ringraziamo Vitto che ci sta guardando da qualche sedia più in là. No, Victor ci guarda su Fuori Onda Radio TV. Fuori Onda Radio TV che dall'Albania. Dall'Albania. Ringraziamo tutti i nostri Ciotti ascoltatori. Tornate la prossima settimana, mercoledì dalle 8 alle 9. Su per giù, diciamo più dalle 8 e mezza a chissà quando. Grazie, ciao al nostro nuovo amico Nunzio Webmashu. Grazie, ciao. Ti vogliamo bene. Ciao Giuseppe Povia. Ciao Peppe Pa. Ciao Luca. Torna Peppe, lo stagista che ti diverti. Vai, torna gay. Ciao signora Pina. Ciao signora P. Ciao a tutti. Ciao. Comunque volevo ricordare davvero. Ciao. Los culatones. Olé. Olé. Desde esta noche cambiaron mi vida, desde esta noche. No quiero ser ya más la abandonada, no quiero serlo. Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, ya no la veía su libertad. Mia culpa, mia culpa, mia terribile culpa, pero al cinema del Corso Buenos Aires, interno 3, al Codromodro, e davano Fiesta che viene la meraviglia, che mi sedetti sulla poltrona centrale del numero corporale 3. Io le dije, si no estás tu, che voy a hacer si no estás tu, y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí, un día me has sentido enamorada, no, no digas que le quieres, cállalo. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Oh. questa fiesta però sin ti. Mentre stavo osservando la pellicola mi sentii un affare durissimo in mano e lo strettei fortissimo e lo pigliei. Fiesta, che fantastica, fantastica sta fiesta. Che fantastica, fantastica sta fiesta. E sta fiesta con l'amico si sentì. Era bello, era giocondo ed era mio. Mi lo portai ingelosito verso l'uscita. Al pezzo di carne c'era un uomo bello e alto, un biforcuto che mi faceva impazzire. Aveva barba, capelli e occhi tutti insieme, un trittico. Salimmo le scale di corsa e lo portai alla mia stanza, lo dudai e lo baciai fortemente su tutto il corpo. Olì, olì, olì! Mi sento contenta e nesta noce, e nesta noce ha parecido lo che io esperava, ha parecido, ha parecido. No se parecía nada a él, mi ha mirado con los ojos tiernos y me ha dicho que era culpa suya, al diablo con la libertad. Ale! Non si capiva più niente, lo prendivo da tutte le parti, negli derici dell'asso, dentro le buche delle orecchie. E anche mi faceva impazzire, era una bestia che spingeva le... Lui spingeva, io traiva! Fiesta, che fantastica, fantastica sta fiesta. Che fantastica, fantastica sta fiesta. E sta fiesta è la che descubri il suo amore. Cosa c'hai di bricoli, gli domandavo. Due palle e uno scopone, dammelo in mano. Benissimo, sei un bellissimo ragazzo. Che stai per andartene, ti do il mio indirizzo. Scrivimi verso le 4 alla mia curia. Cardinale Alfonso Sala, docente in sinificomania e in praticità di campo, ti posso rispondere alle 2, ma non per difetto, per concesso, perché sono il più grande e il più forte della zona. Ti porto con me a Las Vegas, facciamo un viaggio a pagamento di 6 giorni, torniamo su per la lotta del Pacifico, ci buttiamo dentro al panificio mondiale dei rotti in culo.